si muove lo spazio e nella sua anima volerà c'ero dentro sé. Abili nei pensieri ma sono lunatiche come mare. Non lo so se mi troverò. Stabili di pensiero.